Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, quasi una puntualità svizzera, 22.03, buonasera a Michele Tosoni in regia e buonasera agli Dramante, come state? Buonasera. Avete fatto buon viaggio da Mantova? Molto bene. Bellissimo. Benissimo. Perfetto. Stasera abbiamo solo due Dramante, perché il terzo è in come si chiama, come avevi detto Massimo, ok? È in congedo di paternità. È in congedo di paternità. Lo salutiamo Andrea Presciuttini, nostro... Perfetto. Stasera abbiamo Massimo Minotti e Anna Luppi, praticamente che presentano gli Dramante, che sono gli Dramante, esatto. Due su tre. Quindi è il 90%. Esatto. Maggioranza relativa. Maggioranza relativa. Benissimo. Com'è nata l'idea di questa band? Il nome è nato dal punto di vista letterario. Com'è nato? Come si è sviluppato? Un po' di anni fa, vero Anna? Sì, un po' di anni fa, perché è nato, diciamo, in un'occasione ben diversa da quella musicale, ovvero uno spettacolo di teatro in cui dovevamo rappresentare le città invisibili di Calvino, quindi erano molte città e a ognuno di noi è stato chiesto di dare un nome alla sua città. Io in quell'occasione ero praticamente lungo una scala che portava a il fossato di un castello e quindi ero vicino all'acqua e da lì la mia città si è chiamata Idramante. Ti sei appianto il nome praticamente. Sì, praticamente in quell'occasione. Sì. E poi ci è piaciuto il suono, ci è piaciuto il significato che ha l'idea di questa città immaginaria in cui noi possiamo arrivare attraverso la musica a questa città. Questa città, quindi il viaggio, già all'inizio, cioè il primo EP, primo disco, possiamo chiamarlo EP o primo disco ufficiale, vero e proprio, nel mio viaggio? Beh, direi primo disco ufficiale. Disco ufficiale. Sì, il nostro primo album. Che differenza era rispetto a questo nuovo Vite in scatola che abbiamo adesso? Beh, qui lascio la parola a Massimo che forse su questo tema è più... Noi ci siamo incontrati in seguito ad alcune esperienze che ci hanno portato a suonare all'estero, mm-hmm. portando repertorio di musica italiana, cantautorale. Suonare all'estero. Massimo, ci fermiamo un momento, perché sei andato all'estero Mario? Perché noi abbiamo sempre ricercato il confronto anche con mondi musicali diversi dal nostro, quindi naturalmente tutta una serie anche di relazioni nate anche all'interno della nostra città con comunità di italiani all'estero ci hanno portato naturalmente a metterci alla prova in questi terreni e in seguito a una di queste tournée che ci aveva portato in giro per l'Europa e già la prima volta negli Stati Uniti, noi tre abbiamo deciso di fare un progetto di canzoni originali, cioè di non dedicarci più alle cover, ma fare un progetto di canzoni originali. Da lì è nato il primo album che si intitola Nel mio viaggio, perché proprio l'idea del viaggio era alla base. Era fondamentale. Fondamentale di tutto. Poi lentamente il discorso del primo album, poi avete ampliato il discorso e siamo arrivati a questo nuovo disco praticamente. Esatto, questo nuovo disco è un pochino più spinto nelle direzioni, in una direzione direi rock, nel senso anche un po' classico del termine, sia come sonorità sia anche nelle scelte estetiche che abbiamo fatto, a partire dal dividere idealmente il CD in un lato A e in un lato B, richiamandoci all'LP, grande epoca del vinile, così. E quindi si è spinto di più in questa direzione sperimentale, in questa direzione quasi un po' anni 70, sì, oserei dire, nelle intenzioni, quindi diversamente dal primo disco dove c'era forse più entusiasmo e quindi forse entravano le idee, noi avevamo una grande urgenza proprio comunicativa, qui abbiamo un'urgenza più espressiva e certamente. Quindi è più ragionata, più ponderata, possiamo più ponderata, ecco, senz'altro. E adesso, come nostra tradizione, apriamo la finestra del disco, per capire musicalmente che note si prendono, che note si sentono, che sviluppo c'è nel disco. Cosa avete scelto come prima traccia da far sentire da album? Ma come prima traccia io farei sentire la title track. Cioè title track, sì. Vite in scatola, che dà il titolo al nostro album. Perfetto. Mm. oramai tanto è lo stesso. Guardati, a che serve tutto questo? Siediti, copriti che farà freddo. Brividi, se ne vanno via in silenzio. Resta solo la dolce tua scia e un rossetto che rotola giù. Mentre a sera c'è chi capirà che occhi grandi più non tornerà. Ero qui, non so come sia successo. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, all'ultimo momento abbiamo cambiato, abbiamo voluto mettere questo pezzo. Esatto. Così, dal vivo tanto per non annoiarci. Esattamente. Abbiamo una cosa diversa, abbiamo cambiato totalmente la scaletta. Adesso avvicinandoci a questo pezzo qua che si chiama Occhi Grandi, un pezzo importante per lui, che era finalista a un concorso, Note Scordate. Che cosa era questo concorso? Perché è stato fatto questo pezzo, Anna e Massimo? Sì, era un concorso indetto da Anne-Mille Inail. Il tema proposto era quello degli infortuni sul lavoro, in particolare al femminile, al femminile, delle donne. Esattamente. Per cui abbiamo pensato a questa vicenda di questa donna che ha questo infortunio. Certo. Appunto, non è ben preciso dove succeda e cosa succeda, ma... avviene. Soprattutto non ci siamo lasciati spaventare dal titolo del concorso, Note Scordate. Esattamente. Che per un musicista non era un bel invito, non essere un invito a riempire il curriculum. Però questo concorso in realtà era un concorso molto prestigioso, perché a livello nazionale, poi una giuria importantissima con personaggi del passato, musicalmente, come Piero Pintucci, che di lì a poco è andato a dirigere La Corrida, che era direttore artistico, poi Mariella Nava, che era l'anima del concorso, Tosca, Cristicchi, tutte queste, Massimo Buvola, grande Massimo Buvola, tutte queste persone erano in giuria, quindi essere stati scelti come finalista è stato per noi molto importante. Un motivo di grande orgoglio. E la musica era una delle musiche in attesa di testo e l'abbiamo terminata, l'abbiamo abbinata a questo testo scritto per l'occasione, ma che poi è andato a formare una canzone che ci è piaciuta, che piace molto anche al pubblico, e quindi è stato, come dire, molto naturale inserirla nell'album. Sì, mi metto anche io nel pubblico, visto che l'ho scelta. Fatta sì. Sentire da circa un mese va in onda la nostra emittente, perché mi è piaciuto molto, è una bella ballata, ma non è proprio una ballata, sì, però all'interno c'è qualche divagazione, c'è qualche potenza, qualche spinta. A me di questa canzone piace il fatto che sia appunto una ballata melodica, come hai detto tu, senza ritornello, perché non c'è un ritornello. Esattamente. C'è uno sviluppo di fatto sempre dello stesso tema musicale che si ripete tre volte con variazione, una parte centrale, come dire, non in linea, che rompe un po' questa linearità e poi strumentale. E quindi mi piace anche che un pezzo melodico come questo abbia in realtà una serie di scelte non melodiche. Certo, insomma, esattamente. Ecco. Dal vivo come la fate questo pezzo qua? L'ho aumentata, soprattutto la parte strumentale viene un po' più allargato, oppure rimane nell'ambito del pezzo stesso? No, lo eseguiamo come è sul disco, l'abbiamo recentemente pubblicato dal vivo. Il famoso EP di Natale, io l'ho preannunciato prima come anteprima, adesso possiamo parlare di questo EP di Natale, che è uscito come omaggio praticamente. Sì, è uscito come omaggio perché tante persone non hanno ancora avuto la fortuna o la sfortuna di sentirci dal vivo e allora avranno la fortuna di sentirci su internet. Possono scegliere, comunque non sono obbligati, insomma. possono scegliere di scaricarselo gratuitamente se gli è piaciuto. Esattamente. E uno dei pezzi è proprio Occhi Grandi, che è eseguito in maniera abbastanza fedele al disco, logicamente dal vivo la parte centrale, dove entra la chitarra elettrica, è un pochino più energica. A proposito di parte centrale di chitarre, diciamo i musicisti oltre a te che suoni. Io suono chitarra, Anna si occupa delle voci, dei flauti, e Andrea si occupa delle tastiere e delle chitarre. Insieme agli arrangiamenti ci abbiniamo, diciamo, sul palco in studio con una serie di collaboratori, di musicisti, di ospiti. Nel disco in particolare intervengono due batteristi, che sono Luca Modena e Pietro Benucci. Ci affidiamo al basso, all'inossidabile Massimiliano Missi Perboni, che ci segue da tantissimo tempo, e poi ci sono stati anche altri ospiti, Irene Pincelli alla batteria su Questa musica che, Paolo Barbi al flicorno, soprano su Non so chi sono, e ci siamo, abbiamo collaborato con Jonathan Mirai del Teatro degli Orrori per il mastering del disco di Vita in Scatola. Questo quindi è un gruppo decisamente aperto. Sì, assolutamente. Assolutamente aperto. Qualsiasi come tipo... si usava una volta, tu parli degli anni 70, l'ispirazione. Idealmente siamo. Io ricordo i famosi concerti di Grateful Dead che duravano 7-8 ore, è un gruppo aperto apertissimo. E a proposito di batteristi, c'è stato un batterista che è stato molto importante nella vostra carriera, è Gianni Dall'Aglio, un grande batterista dei Ribelli, poi ha fatto parte del Cranio Celentano, cioè, chiaramente era importante, un musicista importante per gli anni 60 e non soltanto per gli anni 60. Beh, Gianni Dall'Aglio è un nome che a Mantova ha un certo peso. Ha un certo peso. Insomma, noi ovviamente ci conosciamo, dopo noi abbiamo avuto occasione di collaborare in particolare per una serata legata a un progetto benefico che lui porta avanti, che è la donazione di organo da vivente a vivente, è una delle ultime frontiere della donazione di organo, perché lui direttamente ha avuto questa esperienza e ci tiene a farla conoscere, organizza degli eventi benefici per sensibilizzare su queste cose. Noi abbiamo partecipato a uno di questi, con molto a un paio, anzi a un paio, con molto piacere, insomma, che dire, grandissimo musicista. Ha un certo peso, come tu hai detto, musicalmente ha fatto tante. Poi i Ribelli era un gruppo straordinario, c'era Demetrios Pratos, ragazzi, con lui. Beh, con i Ribelli condividiamo anche Pietro Benucci, esatto, che è batterista. Esattamente, esattamente. Allievo di Gianni. Allievo di Gianni. Benissimo, adesso è l'ora, il momento del live. Abbiamo parlato di live prima. Cosa suoniamo adesso? Cosa iniziamo questa cavalcata verso le 24? Allora, adesso presentiamo un pezzo e ne facciamo un altro, per rimanere sempre in per tema. Per rimanere di... in tema, chiaramente. No, questa volta il pezzo è una storia d'amore oltreoceano e si chiama Non finirà. Raccontami di te, non ti chiedere se puoi, troppi scomodi perché, basta solo che lo fai. E io sarò lì con te, non ci rinunciare mai. Dopo la salita io sarò quella che tu sai. Non è facile, ma so che anche tu lo vuoi. Respirar così, tutta la vita intorno a noi. Baciami e vedrai che con il tempo imparerò che la nostra libertà non ci separerà. Vola la mia voce verso te, attraversa il mare e le nuvole. Credimi, raccontami di te, stammi vicino, sai, a te sembra nulla, ma non sai il bene che mi fai. Baciami e sarai una splendida canzone, una musica sopra ogni incomprensione. Vola la mia voce verso te, attraversa il mare e le nuvole. Credimi, non finirà. Credimi, non finirà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. questo era un pezzo pop, ma l'avete colorato bene, molti, molti effetti hai messo la chitarra massimo, e poi sei scatenato proprio alla fine, ti stavi scatenando, davi molto pathos sì, al pathos, pezzo. Sempre, l'emozione sempre. Bello, bello. E Anna ha colorato di par suo il pezzo, e poi un pezzo pop, possiamo dire che sì, un pezzo pop. Sì, assolutamente. Però è fatto bene, cioè dal vivo ha un'altra dimensione, un live acustico. E poi tutti questi gli effetti, chitarre che si sovrapponevano una dietro l'altra. Beh, qui sfruttiamo un po' la tecnologia, cioè sono questi aggeggini che consentono un po' di registrarti mentre suoni e sovraincidere, esatto, dal vivo. In acustico specialmente lo usiamo per aumentare un attimino le possibilità. Poi gli ascoltatori non lo sanno, Massimo ha cambiato plettro, ha cambiato il plettro dal vivo e ha dato un'altra sonorità, un'altra alle cose. Ma non ti sfugge niente. No, ma è giusto dire questo, la gente deve sapere come si fa un pezzo, ci sono dei segreti, ma non sono segreti, anche bravura bisogna dire le cose, secondo me. Bene, come è nato questo pezzo? Dove l'avete l'idea di fare questo pezzo pop? Massimo. L'idea di questo pezzo era il classico pezzo pop, quelle pezzo che pop. Nascono e rimangono così, e tipo sempre qualcuno all'interno del gruppo propone i pezzi, questo è un pezzo. Dei tre chi propone il pezzo, tra Massimo, Anna e Andrea. E Andrea. Diciamo che dipende. Voi siete volontari, no? Sì, qua. Anche noi siamo volontari. Perfetto. Chi vuole, propone il pezzo, propone. No? Benissimo. E quindi in questo specifico caso il pezzo è stato proposto da me. Da te. E loro due dicevano, ma sì, insomma, la solita minestra. Io dicevo, ma no, a me piace, ma sì, ma però sono sempre i soliti accordi, no? Così. Allora, come spesso accade, ci si mette a suonare. E uno degli interventi che spesso fa lei quando facciamo i pezzi è quello di dire, no, fermati, non devi andare su questo accordo. Dico, ma no, come? Il pezzo va qua. No. Questo lo cambi. No, adesso allora, questo non cambi. Va più lì. Allora lì parte. Lo cambi. Allora pian pianino attraverso questi passaggi siamo arrivati a creare un ritornello su una tonalità diversa rispetto a quella di partenza e logicamente poi Andrea, che collabora molto dal punto di vista degli arrangiamenti, qui ha una parte in realtà abbastanza importante di piano elettrico e quindi il pezzo ha assunto un altro tipo di forma, ancora più evidente sul disco, dove c'è l'uso delle chitarre elettriche, mentre logicamente quando si torna alla chitarra acustica torna un po' a casa questo pezzo, quindi torna verso dove è nato. A me piace, loro possono dire quello che vogliono. Anche a me piace. A proposito di questo discorso, ho letto una critica, un critico ha scritto una cosa molto giusta, non so se siete d'accordo. Questo lavoro è un finto album di pop rock, cioè cosa vuol dire praticamente? Vuol dire che c'è un grande lavoro sotto, non è l'easy listening di facciata, c'è un grande lavoro, è quello che hai detto adesso, in questo momento, è proprio da questo proprio l'esatta sensazione del lavoro che c'è in un pezzo, che sembra facile, pochi accordi, ma gli accordi poi sono sviluppati in una certa maniera. Questo è il discorso del finto pop rock, secondo me, la vedo in questo momento. Io sono d'accordo. Sì, sì, probabilmente penso che... Forse quello che intendeva il critico era io questo almeno. Io penso che intendesse questo e io intendo, cioè, non è finto nel senso negativo. Cioè, sembra facile, non è un easy listening, è una cosa fatta bene con un certo sforzo anche compositivo di testi, non è buttata là così. Tutti possiamo fare, come giustamente tu hai detto, un pezzo con delle note facili, però bisogna vedere dopo. Beh, certo, da un punto di vista strettamente compositivo credo che sia in realtà una bella scommessa fare dei pezzi semplici che non siano banali. Esattamente, quasi, questo è importante, è semplici ma non banali. È quasi più difficile, quindi delle volte, come penso un po' ad ogni band, ecco, insomma, cioè delle volte ti piace di più fare lo smanettone musicale, quindi andare è bello un qualche volta fare lo smanettone, fare andare un po' ad esplorare territori totalmente nuovi, altre volte dici, ma insomma, partiamo dai primi accordi che avevo imparato sulla chitarra o sul piano e vediamo cosa riesco a dire di mio. Sono due percorsi che hanno uguale nobiltà per certo me. Ma la melodia è fondamentale, la melodia deve essere sempre parte integrante di un pezzo, secondo me. Beh sì, specialmente di una canzone, ecco, insomma. Le melodie spesso nascono, poi sono elaborate anche da Anna, perché logicamente è quella che poi le canta, le deve sentire proprio vocalmente parlando. Benissimo, stiamo dialogando piacevolmente con gli Idramante, stiamo parlando del loro progetto che si sta sviluppando, visto il disco è uscito da poco tempo, e dal vivo, sì, abbiamo detto, il gruppo è allargato o siete solo voi sempre tre? Lo presentate dal vivo. Anche qui dipende dalle situazioni. Normalmente la base dovrebbe essere noi tre, poi a seconda degli impegni, delle situazioni, anche perché ovviamente non in tutti i posti dove andiamo a suonare c'è posto per tre persone o c'è l'impianto adatto e tutto quanto, quindi qualche volta siamo anche in due. Quando è possibile siamo anche in cinque, quindi tutta la formazione con anche bassista e batterista che comunque hanno suonato anche nel disco, quindi chiaramente le canzoni volevano uscire con tutti gli strumenti, quindi quando ce la fanno volentieri appunto le facciamo ascoltare complete, ecco. Poi certo, ovviamente siete un, cioè originalmente siete un trio, ma siete i Cream, cioè nel senso batteria, chitarra e basso, no? Siete un altro tipo di trio praticamente, però avete anche il piano, la batteria nel disco chiaramente in tre, sì, però sì. Altri strumenti, possiamo dire anche strumenti pseudoacustici, un trio, tastiere, chitarra e flauto. Sì, oh no. Sì, sì. L'impostazione può essere quella, dopo il discorso della ritmica, è un po' diverso. Per noi molto importante. Sì, cioè, è fondamentale. Le nostre canzoni nascono comunque con l'idea di una ritmica, dopo a seconda dei pezzi può essere una ritmica più quadrata, a seconda dei pezzi può essere una ritmica più aperta, jazzistica, pulita, più sporca, a seconda di quello. Il primo che pezzo vuole, d'apertura che è una ritmica molto sporca, esatto. È un pezzo potente, è un pezzo che fa muovere, esatto. Non qualche volta lo eseguiamo in acustico anche quel pezzo come lì. Come lo certo. Fate un pezzo simile in acustico? Lo faccio con l'aggeggio. Di nuovo entra in gioco la tecnologia. Fammi sentire un secondo, dai. Ho la chitarra. Se me lo ricordo. Un po' west coastiano questo praticamente, molto americano, mi pare giusto. Ma è bello così, secondo me, molto bello. Sì, sì, sì, sta. Ok, 22:30, facciamo sentire un altro pezzo da disco, ti ricordi la traccia? Sì, facciamo sentire la traccia numero 7, che non so chi sono, è un altro pezzo finto pop rock. Ah, finto pop rock, ok. So chi sono, sono io. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, abbiamo sentito allora quel pezzo, come si chiamava il titolo? Non so chi sono. Non so chi sono, un pezzo decisamente accattivante, vivace, divertente. Sì, abbastanza allegro. Sì, abbastanza allegro. Esatto. Anche cantato allegramente. Sì, sì, sì, sì, mi sono divertita molto a cantarlo, mi diverto molto. Sì, qualcuno l'ha etichettato come electropop, ma è un po' tirata forse come definizione. Un pezzo accattivante, electropop. Insomma, sì, non lo può so. Può darsi io... per le sonorità forse. No, cosa dite, Massimo, cosa dici? Ma a me piacciono tutte le etichette. Ecco, cioè, perfetto. Non è un problema. Cioè, noi accettiamo tutto. L'etichetta, no, l'avete creato così, doveva essere così, doveva funzionare così. È un altro di quei pezzi, che nel momento in cui ci stufava lo sviluppo abbiamo cambiato accordi, cambiato soluzioni. E un giorno poi, ecco, lei... Hai detto una cosa giusta, abbiamo cambiato accordi, abbiamo cambiato soluzioni. Perché? Com'era inizialmente questo pezzo? Come si sviluppa? Ma questo pezzo, come anche altri, era abbastanza lineare, non si spostava mai dalla tonalità d'inizio, non aveva stop, non aveva cambiamenti di questo genere, e pian pianino invece li ha avuti. Certo, li ha avuti. Anche perché si è unito a un testo un po' particolare che è scritto ha fatto Anna. Lei. Sì, praticamente io avevo una serie di anagrammi di persone che conosco, ho anagrammato nomi e cognomi e ne ho fatto saltare fuori parole che avevano suoni che mi piacevano. Ovviamente poi erano spesso espressioni che non avevano molto a che fare le une con le altre, quindi era un testo un po' strano, e da lì è nata l'idea di non so chi sono, nel senso che appunto tutte queste identità si sono mescolate fino a diciamo non capire più qual era l'identità vera, e quindi da lì un po' l'idea non so chi sono. E anche queste tonalità frizzanti, tutto anche il fatto di non svelare l'identità di chi, esatto, chi sono praticamente. Esatto. Di confondere, possiamo dire, questo tra sì, virgolette, sempre essere. Tra virgolette. Ok, suoniamo qualcosa d'altro, che cosa adesso? Io presento il pezzo. Presenta tu. Io presento adesso il pezzo. Allora, questo pezzo si intitola Che cosa resta? E visto che dobbiamo... cioè che ti interessa un po' l'origine dei pezzi, a noi piace molto spiegarlo. Certo. Questo è un pezzo che ha scritto il nostro tastierista fondamentalmente, ma che sembra mio. Ah, perfetto. Cioè, nel senso, ha lo stile un po' dei miei pezzi, ma l'ha scritto lui. E quindi no, un pezzo molto bello, a me piace molto, e si sviluppa attorno a un testo che Anna ha scritto, anche questo un po' a tappe devo dire, e che alla fine è diventato secondo noi un ricordo di una fotografia di quei momenti in cui noi ci accorgiamo che ci manca qualcosa, che non è necessariamente una persona, ma spesso ci manca magari lo spirito di un certo momento, il trasporto, potremmo anche dire un ideale, ecco, insomma, e ci rendiamo conto di quanto la nostra vita sia svuotata con questa mancanza, ecco, e abbiamo cercato un po' di condensare queste cose, lei ha cercato di condensare, secondo me è condensata molto bene anche questo testo. Può essere letto come una ballad melodica, ma ho la presunzione di dire che ha più chiavi di lettura. Che cosa resta? Perfetto. Che cosa resta degli attimi passati a disegnarti sui fogli dell'attesa, degli attimi consumati ad inventarti un nuovo volto e nuovi occhi. Per immaginarti diversa da come sei, nei miei sogni e nei miei fogli, che che cosa resta se non torni? Che cosa resta se non torni? Uno specchio per vedere dentro te, un biglietto per qualcuno che non c'è, giorni nella polvere. Se finisse adesso, senza il tempo per un saluto, che cosa si perde? Che cosa portare via? Ciò che importa, ciò che ancora ci riguarda. Che cosa resta di quel mondo? Giorni nella polvere. Che cosa resta degli attimi passati? In che direzione? Se è una strada senza uscita, un fuoco, cenere di progetti, che cosa resta se non torni? SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, due cose da sottolineare in questo pezzo. Prima mette risalto la vocalità di Anna in questo pezzo, e poi, giustamente, come Massimo diceva prima, è un pezzo scritto da Andrea e non da te. Però sembra un pezzo scritto da te, assolutamente, come impostazione, assolutamente vicino a te. Ci vorrebbe invece Andrea per dire la sua qua. Scritto dal non sarebbe d'accordo con esatto, me. Esatto, non si può difendere Andrea oggi, non si può difendere. Bello, un bel pezzo, molto interessante, una ballata, possiamo dire che è una ballata anche questa, acustica, che mette in evidenza, come abbiamo detto, le dote vocali di Anna. Poi tu l'hai colorata col gioco della chitarra, con i giochi dei tuoi aggeggini che sono nascosti, esatto, sotto il tavolo, praticamente. Esatto. Sì, è una canzone anche questa di struttura semplice, di struttura abbastanza classica, dove ci siamo divertiti nell'arrangiamento, anche perché avevamo a disposizione di tutto di più. Questa canzone è nata in America, presso gli studi. Dobbiamo parlare poi dell'America, parleremo dell'America, voi, è molto importante parlare dell'America. E ci siamo sbizzarriti là a usare Hammond, tutte queste cose qui. A proposito dell'America, adesso siete, quando siete stati in America, siete stati in un posto in America perché siete andati a trovare una di italiani praticamente, una convention di quel genere, però avete voluto incidere qualcosa in America, avete tentato di incidere qualcosa in uno studio che, vedi caso, era chiuso, e allora avete optato per un altro studio che... Come parte il discorso? Che era aperto. Che era aperto. E che erano gli Electrical Audio Studios. E che dobbiamo dire cos'erano? Di Chicago, un studio importante. Che sono, sì, degli importantissimi studi dove, fondati da Steve Albini, che sicuramente conoscerete. Decisamente conosciamo. E, è stata un'esperienza bellissima perché questi studi sono, sì, hanno questo nome e questa importanza. E mi viene da dire che invece poi entrando scopri che, come dire, sono alla portata di tutti, quindi non ci siamo sentiti in un posto inarrivabile, ma siamo riusciti anche noi a sentirci, dico forse esagerando, ma un po' a casa, insomma, ci hanno fatto sentire molto a nostro agio. Anche se c'era la chiave di volta di Steve Albini, praticamente. Sì, esatto. Esattamente. Steve Albini ha un appartamento negli studi e i musicisti alloggiano negli studi. Steve Albini ha detto più volte: ho l'appartamento negli studi perché non voglio fare un'ora nel traffico ogni giorno. E visto che ci devo lavorare, è giusto che mi metta in una condizione comoda. Con questo pretesto ha messo nelle condizioni comode, più comode possibile, altrettanto comodo i musicisti, in quanto tu hai a disposizione, ogni musicista ha a disposizione delle stanze, una cucina attrezzatissima e una living room con piena di DVD, concerti dove tu ti puoi rilassare e diciamo che quando ti viene l'ispirazione dopo un caffè americano scendi in studio. C'è tra il caffè italiano e il caffè americano? Beh, il caffè americano è... La quantità è enorme. Cioè, diciamo che la differenza tra quello che c'è in Italia e quello che c'è in America è che è tantissimo. Cioè, ecco, è la stessa cosa, ma tantissimo. Tendenzialmente è un po' così. No, insomma, è insomma, un'altra cosa, ma è buono. Comunque, sì, alla fine è buono. E poi tu hai detto, a microfono spento, parlavamo con i ragazzi qua, si parlava della voglia di continuare a lavorare negli studi americani. C'è un certo, si arriva a un certo limite, dopo basta, però... Si continua, si potrebbe continuare ancora, come tu dicevi, Anna. Sì. Fonico era stanco, però voleva continuare ancora. Sì, sì, lui era disponibilissimo e lui di fatto ci chiedeva: se volete andare avanti, io sono qui fondamentalmente, completamente a nostra disposizione, da quando arrivava agli studi verso le 9 del mattino fino all'ora che si faceva. Insomma, qualsiasi ora fosse, andava bene per lui ed era veramente... Benjamin Flint, insomma, il nostro tecnico, è stato veramente... Chissà se ci sta ascoltando via internet. Via internet, può darsi. Anche essere, non si sa mai. Tra del pomeriggio, più o meno, una tre e mezzo. Guardate nel vostro server se avete i contatti degli Stati Uniti. Okay. Benissimo, quindi questo è il modo di lavorare negli Stati Uniti, praticamente è così. Non ci sono, cioè, quando c'è la volontà, c'è la voglia di fare un pezzo, si fa, c'è poco da fare. Basta. Sì, c'è poco da fare da un punto di vista proprio, diciamo che è molto improntato sull'estrema professionalità, quindi insomma c'è una necessità, c'è un lavoro da svolgere e le persone che sono lì hanno voglia di farlo, hanno la giusta, anche la giusta retribuzione, la giusta, né di più né di meno, e quindi tutti... fondamentalmente lavorano serenamente, se ci sono dei problemi si risolvono, ma insomma nessuno è, come dire, in una situazione di cercare di vedere se l'altro è bravo o non è bravo. È quello il discorso. Qualche volta in Italia capita questa roba. In Italia è un mondo un po' più piccolo, e quindi capita spesso che tante cose interferiscano. Quello che io mi ricordo di quei giorni bellissimi era semplicemente la voglia di fare le cose, il tentativo di farle al meglio possibile e tante belle energie, ecco, insomma, energia che andava scaricata poi alla fine delle giornate di lavoro, quando si facevano degli orari improbabili, con passeggiate attorno all'isolato che destavano anche sospetti delle forze dell'ordine, perché non c'era più in giro nessuno, c'eravamo solo noi che scaricavamo un po' la tensione della giornata, ma era una tensione positiva, molto positiva. Benissimo, allora salutiamo il nostro direttore artistico che è Alberto Pisco, che è appena arrivato, e salutiamo anche la Nicoletta che ci segue sempre. E volevo solo sottolineare ai nostri ascoltatori il bel microfono che ha portato l'Anna, un microfono degli anni 60, si usava negli anni 60, sì. Vero? Aveva un certo fascino. C'è moderno poco... adesso però. Adesso è moderno, però ha un certo colore, un certo fascino anche come costruzione. Ok, sentiamo un pezzo da disco adesso, che ti ricordi il titolo del pezzo? Dovrei ricordarmelo, la traccia 1, Fatevi da parte, che è proprio nata... È una rocchettara. In America, pezzo. Proprio quella dove si sente di più lo spirito rabbioso, anche un po' rock di quei giorni. Fatevi da parte. Ok. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Andrea Presciuttini, Massimo Minotti, Anna Lupi stasera, Massimo e Anna in ogni caso presenti. Questo è un pezzo proprio da spaccare, da iniziare, da rompere tutto praticamente. È un pezzo rock di Sergi. Poi alla fine Massimo giocava alla Hendrix e via. Proprio, un po' un'esplosione finale della tua voce. Come mai è nato questo pezzo, Anna? Come avete sviluppato? Ma questo è nato... Beh, innanzitutto l'abbiamo messo all'inizio del CD perché... Appunto, abbiamo deciso un po' di scegliere questa svolta rock, diciamo sì. Così, e quindi abbiamo detto il primo pezzo deve essere senza compromessi. Deve spaccare. Subito. Andiamo diretti e vediamo cosa succede. E anche il titolo della canzone, insomma, è abbastanza forte, nel senso che questo fatevi da parte può essere interpretato in vari modi. Il senso di questa canzone era l'idea che era una sorta di invito alle persone, ovvero... Seguite i vostri sogni, se non avete il coraggio di lottare per quello in cui credete o i vostri sogni, fatevi da parte, appunto, cioè non c'è spazio per chi non crede nei suoi sogni e per chi non fa di tutto per raggiungerli. E questo era un po' quello, l'idea da cui è nata la canzone e con cui si è sviluppata. E la musica ne ha seguito l'iter, sì, praticamente, esatto. Ne ha dato una spinta, proprio una musica potente, forte. Prima abbiamo parlato di qualche pezzo che era nato dall'idea di Massimo, qualche pezzo nato dall'idea di Andrea, questo è un tuo. Pezzo che è nato, sì, da una mia idea, che fondamentalmente io so suonare la chitarra proprio pochissimo, anzi per non dire quasi nulla, e quindi ho improvvisato qualcosa sulla chitarra non sapendola suonare, per cui quello che ne è venuto fuori è stato così, abbastanza monotono, diciamo, e è diventato un po' un mantra ho improvvisato, è diventato proprio un mantra, è proprio un mantra questo qua, musicalmente parlando, si sente, si vede, si avvince. A proposito di mantra, adesso siamo nel 22:56, adesso facciamo un piccolo viaggio nei dischi da portare su un'isola deserta, la nostra solita rubrica delle 23. Chi comincia dei voi due? Momento di panico. Comincio io, che però ne ho quattro sicuri. Io ne ho due, quindi forse puoi iniziare tu intanto. Bene Massimo, allora, vai. Adesso che non posso copiare, intanto io penso. Allora, io comincio. E cominciamo dalla mia formazione musicale, quindi senz'altro un album dei Pink Floyd. Quale? È dura scegliere. Diciamo che potrei dire The Side of the Moon, Wish We Were Here, grandi classici, ma scelgo Amagamma. Amagamma, che è un Amagamma grande volume classico. Volume 1. Amagamma volume 1. Volume 2 fa anche lo stesso. Volume 1, volume 1 però assolutamente. I disagi. Assolutamente. Poi un altro caposaldo della mia formazione musicale, che è Fabrizio De André, e qui invece vado però verso la fine. Creusot-Demà. Il primo disco di World Music. Il primo disco di World Music, esatto. Italiano almeno, secondo me. Italiano assolutamente. Esattamente. Poi andrei su Stop Making Sense dei Talking Heads. Ah, e c'è un collegamento con i Talking Heads e con Creusot-Demà. C'è un collegamento, perché il leader di Talking Heads ha detto che Creusot-Demà, esatto, era un capolavoro assoluto. Assolutamente. Come mai i Talking Heads? Beh, i Talking Heads sono state una dei gruppi che ho scoperto relativamente tardi, cioè non fanno parte dei dischi che rovinavo da adolescente, diciamo, che era più appunto Pink Floyd, André, cantautorato classico e rock classico. E Talking Heads li ho scoperti dopo e secondo me sono un gruppo pazzesco. A me ha sconvolto 77 di Talking Heads. Sì, è un disco anche quello, ce non ne sono, da poco. Ci sono tantissime, anche i Talking Heads secondo me si inseriscono in quel filone del semplice ma non banale, cioè molti pezzi hanno una struttura semplice ma insomma li possono fare solo, quindi un gruppo straordinario, solo loro, non c'è, assolutamente, della East Coast, sono esatto, della costa newyorkese, esatto. Lou Reed, Docet, esatto. Poi andrei a scegliere Michele li ha messi in sottofondo, vedi? Grande. Ah, bravo Michele. Ok, andiamo. Andrei a scegliere Nero a metà di Pino Daniele. E come mai sei passato giustamente dai Talking Heads a... Beh, Pino Daniele, che è un grande chitarrista, tra parentesi. È assolutamente un grande chitarrista, e Nero a metà è un disco straordinario. È un disco con dei pezzi... Forse uno dei pochi esempi di diffusion in Italia, cioè fatta come, insomma, come Dio comanda, con anche questa commistione con il Mediterraneo e tutto quanto. Qui siamo già un po' dopo, ma il disco è un disco che mi piace molto, che ho ascoltato tantissimo. Il quinto ci devo pensare. Ma David Byrne e Pino Daniele si trovano a sicuramente assieme, c'è una bella coesione. No, ce l'ho invece, ce l'ho. Non ho il nome, non saprei dire, non saprei dire, però un disco di Georges Brassens. Allora passiamo a De André qui praticamente, esatto, il maestro di De André. Il maestro di De André che però diciamo che ancora di più lo si apprezza nelle sue composizioni e nelle sue... anche nelle opere magari un po' più tarde, non sì, proprio quelle che sono state tradotte da De André, ma anche quelle che sono venute dopo, come non so. Quindi siamo passati alla Francia. Alla Francia. Sì. Una Francia un po' particolare con Brassens. Sì, una Francia non proprio di quei, non proprio dei cantautori, dei classici, classici certo, chansonnier, ma insomma questo chansonnier un po' particolare che è Georges Brassens, che a me piace molto. Benissimo, Anna tocca a te adesso. Bene, tocca a me. Allora, ovviamente non sono riuscita a pensare agli altri tre perché stavo ascoltando lui, quindi... No, allora, devo fare una premessa che secondo me è importante perché io sono di una generazione un po' diversa e devo dire che di dischi interi che io abbia in mente ce ne sono proprio pochi, perché sono della, diciamo tra virgolette, della generazione, non che sia giovanissimo ormai, però sono della generazione che ascolta i pezzi più che il disco. Quindi io non ho un disco, adesso ve ne dico qualcuno, sì, però è difficile per me, certo, avere un disco intero che ho ascoltato più e più volte dall'inizio alla fine, come appunto mi raccontano, senza volergli dare degli anziani, però insomma loro ogni tanto mi raccontano che loro compravano i CD, certo, anzi forse prima ancora il vinile, forse prima ancora le audiocassette, sì, esatto, che anch'io ho fatto in tempo a vedere, ma come dire, appena da bambina, così, ecco, certo. Quindi insomma abbiamo quei 9 anni di differenza. Ecco, quindi diciamo che questa domanda è difficile per me perché appunto album interi sono più rari, mentre magari ho tante canzoni singole o 2 o 3 di un autore che conosco e che ascolto sempre, ma non il disco intero, quindi... Bene, fatta questa premessa, mi sono venuti in mente degli autori che io ho particolarmente a cuore, che forse a te e a chi ci ascolta non diranno niente di particolare, ma io ve li nomino, se magari vi interessa anche andarli a scovare. Uno è la mia grande passione, un cantautore spagnolo che si chiama Joaquín Sabina e che è famosissimo in Spagna praticamente come Vasco Rossi qua in Italia, quindi ascoltatissimo. Scrive dei testi per me meravigliosi, io ho vissuto per un po' in Spagna, quindi ci sono particolarmente affezionata anche per quello. E ecco, di lui un album intero ho presente soprattutto l'ultimo, che è Vinagre y Rosas, perché sono andata a un suo concerto e l'ho comprato, ma per il resto conosco un po' tutta la sua discografia, ma più a pezzi. Quindi musicalmente come si può collocare in Italia questo? Musicalmente è un cantautore, fa quindi diversi generi, ha fatto tutto un periodo rock, quindi ci sono un sacco di canzoni proprio rock classico. Ma spazia anche al latinoamericano. Insomma, chiaro, fa diversi generi, ballate, cioè un po' tutti un po' i generi, tutto, diciamo, non ha un genere preciso, forse il rock è il più. Ecco, poi un altro disco, anche qui un nome che forse non vi dirà niente, è l'ultimo della fila, che è un gruppo, anzi un duo, sempre spagnolo, e qui ho anche qui un disco, La Rebellion de los Hombres Rana. E anche questo legato forse alla mia esperienza in Spagna, perché è stato il primo disco che ho comprato e quello sì, l'ho ascoltato, perché al tempo non avevo il lettore MP3, quindi ero ancora prima del lettore MP3, avevo il lettore CD e allora ho ascoltato quel disco in particolare. E quindi che dire, altri... E se arriviamo dalle nostre lande... Dalle nostre parti. Non si può copiare, quindi non si può copiare. Lui ha citato De André. Mi ha rubato De André. Come si fa? Ma un De André, cioè lui ha citato De André, però poi citare un disco di De André lontano dalle sue preferenze, non credo, ma puoi citare qualche altro, ce ne sono tanti di interessanti. Eh sì, però non avendolo, cioè non avendo presente tutto qualche il momento disco di Andrea, non so, il primo momento, il momento di La Buona Novella, il momento Non al Denaro nel Mondo del Cielo. Ma direi sempre per non copiare lui, Non al Denaro, Non al Amore nel Cielo, ma però per non copiare, perché per sennò no, avresti detto Creso de Mar, benissimo, ecco. Quindi la Spagna è il tuo punto di riferimento praticamente. Sì, sì, direi che dopo ascolto tantissime altre cose, ma però... non ci sono poche influenze sudamericane o latinoamericane in questo disco. Sì, perché, come mai? Perché in realtà la Spagna non è Latino America. Sì, e vero. Quindi è proprio, cioè in realtà uno pensa musica spagnola, pensa... Poi la musica spagnola adesso è anche forse abbastanza giovane, nel senso che loro hanno conosciuto, tra virgolette, la libertà molto più recentemente di noi. Di noi, certo. E quindi, per esempio, alcune cose che ascoltavo erano pop molto semplice, ma proprio molto, molto semplice, molto istintivo, molto allegro, che quindi a noi ricordano il latinoamericano. Poi però il latinoamericano viene da un altro continente, quindi... per cui, sì... musica spagnola, in realtà per esempio io sono cresciuta con i cantautori italiani che ascoltavano i miei genitori alla fine, quindi certo. Cioè, De Gregori mi ricordo moltissimo, Lucio Dalla, Venditti anche ascoltavano, Battiato, insomma, poi ecco anche dalle nostre parti. Insomma. Certo, il cantautorato praticamente. Sì. Ok, 23:06 e 9 secondi, 10 in questo momento, io potrei ancora... invitarvi a suonare un altro pezzo, dai, che fa bene alla salute sentire un po' di musica dal vivo, assolutamente. Che cosa, Massimo? Allora, eseguiamo il pezzo che apriva il nostro primo album, il nostro primo disco, che è un pezzo che parla di fatto del ritorno da un viaggio. L'ispirazione francesissima di questo pezzo, a partire dal titolo, che è come questo... questo treno, che è il treno a grande velocità francese, quindi il pezzo si intitola TGV. Occhi grandi, guardi il mondo da una finestra, hai lasciato le tue sicurezze e i tuoi amici per andare via. E chi ti ha detto non andare per paura di perderti? Non sapeva che la voglia di andare era più forte di qualunque sì. Cosa hai visto da quel treno che portava in centro città? Paure che si scioglievano, legami che si stringevano. Parigi, mille luci, Parigi, grande e piccola. Parigi ti abbracciava come una coperta. Parigi, mille sogni, Parigi, la tua nuova casa. Parigi, burro e biscotti, la vedo ancora nei tuoi occhi. Già che scende piano nei tuoi grandi occhi neri, sembra solo un ricordo lontano, è solo tristezza apparente, ma lascia gocce di gioia sui vetri della tua finestra e racconta di grigio e di vento e di un'intima malinconia. Una musica suona lontano su un vagone di periferia. Mm-hmm. Parigi, mille luci, Parigi, grande e piccola. Parigi ti abbracciava come una coperta. Parigi, mille sogni, Parigi, la tua nuova casa. Parigi, burro e biscotti, la vedo ancora nei tuoi occhi. Che cosa pensi ora che sei tornata qui? Parigi ti sorride dalle foto e dai film. Niente sarà più lo stesso per i tuoi occhi limpidi che hanno visto le luci di Francia cullarti così. Parigi, mille luci, Parigi, grande e piccola. Parigi ti abbracciava come una coperta. Parigi, mille sogni, Parigi, la tua nuova casa. Parigi, burro e biscotti, la vedo ancora nei tuoi occhi. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'è poco da fare, il flauto da un certo fascino. Suonare il flauto da un certo fascino. Poi la chitarra di Massimo dava l'input. Perfetto, un pezzo molto bello che io non conoscevo, chiaramente un pezzo dal disco precedente, molto indovinato, molto, c'è proprio la coesione perfetta fra le due voci, erano significativi anche questo, vero Anna? Sì. Le due voci femminile e maschile che si ricorrevano nel pezzo. Sì, esatto. Sì, poi questo pezzo è anche ormai diverso tempo che lo suoniamo, per cui il nostro primo album è uscito nel 2008, quindi ormai... diciamo che è un pezzo vecchio quasi, quindi per noi, per cui probabilmente ha anche così assunto una pasta, una sonorità che ormai è data anche automatica, dal tempo, insomma, sì. Assolutamente automatica, sì, l'accordo vostro era perfetto, si vede fin dal primo momento, dalla prima nota era tutto predisposto chiaramente. E l'album originario com'era musicalmente? Era su questa, era un più meno accentuato, più riflessivo su questo pezzo, voglio dire. Su questo pezzo, questa era la versione tendente acustica, al pop, questo quindi, pezzo però. Sì, tendente al pop, soprattutto è nato così. Poi ultimamente, per esempio, chi ci ha sentito live l'ha sentito più rock, perché abbiamo fatto l'avete accentuato. Un po' movimentato e così. Un po' americanizzato, forse. Mi pare giusto, ma, che insomma, sia così. Beh, Massimo ama molto gli Stati Uniti. Sì. Stelle strisce corrono. Stelle strisce americane, vero Massimo? Decisamente. Sì. Bello, interessante. Bene, bene. Ok, 23:13. Non è stato uno sforzo piacevole, però vi siete impegnati molto in questo pezzo, ma era molto accattivante, entrava immediatamente in circolo. Vi facciamo riposare un momento. Dai, sentiamo un pezzo dall'album. Ti ricordi che traccia abbiamo scelto adesso? Adesso facciamo davvero la title track. La title track, come si dice in La title track, la numero 6, Vita in scatola. Perfetto. Vogliono vedere, prendono posizione, hanno questa notte che di pane hai profumo, sa di baci dimenticati e di fuoco di deserto. Girovagano inganni con la valigia del ricordo, così camminano alla ricerca di una distanza e poi ritornano. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, state sempre ascoltando Rock Wave. Stasera ci sono gli Dramante, il Michele Toson sempre in regia. Abbiamo sentito questo title track, come si dice, voi siete stati negli Stati Uniti dal title track. È un title track molto mossa, molto rockettara anche questo. Sì, anche se la genesi di questa canzone era tutt'altro che rock. Allora, la genesi di questa canzone è stata un... Vita in scatola. Di Vita in scatola è stata su un telefonino che Anna antidiluviano, ha usato per registrare una volta in macchina mentre era lì. Ha registrato tutta la prima strofa, così come la sentite adesso. E è venuta a fare, io avrei fatto questa cosa qua. Allora, bello, facciamo la reggae. E l'abbiamo fatta. È vero, è passata anche l'abbiamo fatta in sala prove, una versione un po' dub reggae, un po' Alma Megretta, se posso dire. Sì, perché no? Ben volentieri. Un po' una cosa così. Insomma, a quel punto lì il nostro bassista, che spero ci stia ascoltando, che saluto, se non ci sta ascoltando non lo chiameremo più a suonare. Il nostro bassista a quel punto lì, che è veramente un rockettaro, ha detto: insomma, basta, sono stufo di tutti questi pezzi qua, le vostre ballate, così. È uno molto sanguigno, ma fantastico. Fa: insomma, basta, sono stufo, ma facciamo una cosa un po' rock, una volta. Ha detto: beh, dai. Sai che... E poi Vita in scatola con rock. Sai che per una volta forse hai ragione, gli abbiamo detto. Allora, niente, è nata questa cosa qui con una serie di stacchi che Andrea ha contribuito in particolare a perfezionare. E questo solo di Hammond che ha inserito verso la fine, che è quella pausa della canzone prima dell'esplosione del rush finale. E quindi ha avuto anche questa, è partita da lontano ed è arrivata qui dal reggae, reggae al rock. Beh, rock e reggae non c'è tanta differenza. Bob Marley, che è padre di tutti i musicisti reggae, ha spesso e volentieri contaminato il reggae col rock, quindi non c'è nessun problema. No, senza dubbio. Beh, i Police in primis, praticamente. Sì, vero. E a proposito, una cosa interessante, tu hai citato che Anna il primo verso del pezzo l'ha scritto, cioè con un telefonino praticamente. Una volta si usavano il block notes, giustamente si usano i telefonini. No, in realtà io continuo a usare anche il block notes, però in quella situazione in particolare stavo canticchiando questa cosa e stavo guidando, quindi non potevo fare altro. Certo, potevo... giusto, giustamente. No, forse avrei potuto fermarmi, però avevo già anche la melodia, proprio è nato tutto insieme, quindi per fortuna bisogna catturare questo... immediatamente. Sì, esatto, immediatamente, quindi per fortuna ho questa bellissima funzione, appunto grazie alla tecnologia, sul mio cellulare, nonostante sia abbastanza vecchio, registra, e quindi ho fatto partire la registrazione anche se guidavo, quindi insomma... Potevi farlo. Hai usato l'auricolare. No, confesso che no, in quella particolare situazione no. Spero che non sia retroattiva la multa, se può andare a risalire quando speriamo è che lo... sia in prescrizione. Sì, spero di sì, effettivamente sì, dai. Sicuramente in prescrizione. Ormai. In ogni caso è una cosa interessante, sì. C'erano, penso volentieri, sono dei musicisti qua che dicevano questo, quando ho bisogno di prendere all'amo il discorso del testo, un testo che mi frulla in mente, o di notte mi sveglio, mi alzo, scrivo, e bisogna catturare immediatamente le cose. Sì, Bongiorno Leno diceva che lui li catturava in bagno qualche volta le cose, li scriveva con un pezzo di carta, li catturava in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, perché un musicista o chi scrive un pezzo deve catturarlo, perché quando se ne va non lo trovi più. Vabbè, non è così. È assolutamente così. A me in particolare vedo che spesso ho le ispirazioni proprio nel momento di andare a dormire, proprio forse perché alla fine della giornata si concentrano un po' i pensieri, ripensi un po' a tutte le cose, spesso arriva lì l'ispirazione di un pezzo e come dire, mi fa anche un po' arrabbiare questa cosa, perché non posso addormentarmi, cioè devo, cioè, anche se sono stanco devo andare da qualche parte, possibilmente da solo, e cercare di scrivere, fondamentalmente di registrarlo, ecco, insomma, che spesso sono idee in parte musicali, e quindi devo fare questa cosa. In realtà un pezzo, quando è valido, per me ritorna, cioè capisco che è valido, che mi piace svilupparlo quando me lo ricordo. Ah, ho capito. Se non me lo ricordo, probabilmente non era, in realtà non era valido. E c'è anche, scusami, c'è anche questo, se non te lo, cioè, te lo ricordi ma per motivo diverso non riesci a finirlo, il non finire, sono giorni e giorni che passano ma lo devi finire, devi trovare un giorno per finirlo, oppure rimane in sospeso? Da fastidio che rimanga in sospeso oppure no? Da abbastanza fastidio che rimanga in sospeso, almeno per me personalmente. Deve essere finito. Ci vuole il momento giusto per essere finito, cioè anche quello non può venire a comando. Però sì, dà abbastanza fastidio, rimane anche il sospeso. Io ricordo un fatto che un musicista a tempo fa è venuto con un cantautore, diceva che un pezzo l'aveva scritto 10 anni prima, ma non l'aveva scritto del tutto, era scritto così, l'aveva lasciato nel cassetto, non era finito, ma rimbalzava ogni tanto nella mente e finalmente ha trovato il momento giusto per chiuderlo, perché non è, tutte quelle versioni che aveva fatto non l'avevano soddisfatto, e dopo 10 anni ha trovato la versione giusta. Sì, lo capisco, perché effettivamente è una cosa incredibile, delle volte ma è così, bella così. È così. In alcuni pezzi del nostro disco proprio il ritornello o magari alcuni pezzi di testo o alcune soluzioni sono arrivate proprio lì mentre si doveva registrarlo, cioè proprio all'ultimo. Ma ecco, c'è stata difficoltà di coesione? Quanto avete discusso, democraticamente parlando, per confezionare l'album? Beh, il percorso è stato abbastanza lungo, perché comunque noi siamo usciti col primo disco a giugno del 2008, 2008 sì. E praticamente verso la fine di quell'anno lì sono nate le prime canzoni del nuovo album, che poi pian pianino si sono evolute e sono arrivato a compimento nel 2010, quindi comunque 2 anni buoni di gestazione. Discussioni vere e proprie non ne ricordo, perché adesso grazie alla tecnologia spesso ti scambi le idee, quindi certo. Puoi, come dire, prendere un pezzo, lavorarci, passarlo, un altro ci aggiunge un pezzo, e i momenti sono diminuiti rispetto a tempo fa, i momenti proprio in sala prove, diciamo. Però sì, ci sono ovviamente ancora, ecco. Cerchiamo il più possibile di arrivare, diciamo noi, con un'idea in sala prove il più possibile strutturata, ecco, insomma, perché poi anche il fatto di collaborare con degli esterni, questo aiuta molto, perché insomma si riesce a utilizzare al massimo il tempo che si ha. Perfetto, adesso vi invito un'altra volta a pescare dal vostro repertorio quello che volete. Cosa? Ok. Direi una delle canzoni del nuovo disco. Del nuovo disco. Quella che chiude l'album. Esatto, che nel disco è suonata piano e voce. Sì, esattamente, quasi molto scheletrica. Esatto. Assolutamente. Anche qui sarà abbastanza scheletrica, visto che siamo sempre in due. Però è con un'altra veste. Si chiama Velocemente Fragili. Ok. e sono andati via, dimenticati, spaventati da una verità che vede tutto, sai, addormentati lì, in cerca di una voglia nuova, carezza lucida. Questione di velocità, ci hanno detto camminate e andate via, che non c'è posto per chi soffre e vuole scendere a compromessi. Sappiamo come fare per piacergli. Noi, deboli ed invincibili, velocemente fragili. Noi, deboli ed invincibili, velocemente fragili. E sono andati via, non c'è pazienza, non c'è calma, solo rabbia che brucia dentro, ma sul filo della via, mentre la notte prende fiato, difesa lucida. Nessuno qua è uguale a me. Abbiamo sangue, abbiamo sale. E andiamo via in una gabbia di sole e vento, lune nuove di tramonti. Abbiamo muri vuoti e tradimenti. Noi, deboli ed invincibili, velocemente fragili. Noi, deboli ed invincibili, velocemente fragili. Noi, deboli ed invincibili, velocemente fragili. Sono andati via, dimenticati, spaventati da una verità. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Cari ascoltatori, se attentamente avete sentito il pezzo che andava, questo pezzo che chiudeva l'album, impostazione un po' particolare rispetto al piano e alla voce. Il piano non c'è, Andrea ci sta ascoltando da lontano, da Mantova. Hai fatto un effetto particolare, Massimo. Sì, su questo pezzo uso un phaser sulla chitarra. Un phaser che da entrava, esatto. Poi si allontanava, poi rientrava, eccetera. Esatto. Creare un po' questi suoni, anche questi un po' antichi, diciamo. Sì, esattamente. Si addice molto, secondo me, all'atmosfera di questo pezzo. È anche un po' un suono in parte simile a quello che è stato usato per la registrazione sul piano, ecco. Esattamente. Poi voi potete vedere, ascoltatori, però Massimo gioca con tutti i pulsanti che ha sotto. Incredibile. Però è positivo, decisamente positivo. Ha questi effetti che da colora, cioè in mancanza delle tastiere, le tastiere vengono sopportate, costruite da questi effetti praticamente. Possiamo dire così. Parzialmente. E anche la voce qui ha un effetto un po', forse un phaser anche questo, come... Sì, tipo phaser, ha una impostazione un po' differente. A proposito di questo, adesso dobbiamo parlare della cover che avete fatto, la cover di Modugno. Come mai questa cover di un pezzo storico di Modugno? Fatta in modo molto particolare, molto scheletrica, molto lontana da... Chiaramente non poteva essere vicina, ma lontana perché doveva essere così. Non si poteva, molto lenta. Esattamente, molto lenta. Non si poteva... Modugno era là. E rimane sì, là, e voi l'avete fatto a vostra idea. Certo. Ma sì, questa idea nasce dal fatto che questo pezzo è assolutamente nella mia infanzia, e era uno dei pezzi che sentivo di più quando ero bambino, e penso nell'infanzia di tanti. Certo, tantissime persone. E tantissime persone hanno questo pezzo, è parte del nostro patrimonio. E quindi è nato un po' per scherzo, facendo una prova con Anna, trovando un po' magari un registro che le si addicesse, e già ci convinceva. E allora abbiamo detto, ma insomma, proviamo quando siamo in studio, quando saremo in studio là in America, proviamo a vedere cosa salta fuori. Non era calcolato, ma praticamente quando eravamo praticamente a tre quarti della nostra due giorni in studio là, quindi nel pomeriggio del secondo giorno, già abbastanza stanchi e soprattutto estraniati un po' dal mondo, perché in queste situazioni qua già sei oltreoceano, poi ti metti anche in uno studio, non capisci che tempo c'è fuori, sei lì, lavori su... Isolato praticamente. Più o meno secondo me, verso le 5 di pomeriggio, potevano essere le 5 di pomeriggio, ma per me erano le 5 di pomeriggio, ma magari erano le 3 o... le 7, non lo so, perché avevamo proprio perso la nozione del tempo stando lì dentro. Abbiamo detto, va bene, dai, facciamo questa, quella che è sul disco è la presa diretta del pezzo, quindi così come è stata suonata, con qualche aggiunta di qualche sovraincisione di chitarra, diciamo che non è stato tolto niente, è stato aggiunto qualcosina, la voce è assolutamente quella di quel momento lì. Io l'ho rinchiusa nel mio sgabuzzino, c'era uno spazio per la voce piccolissimo. Giustamente per far stare solo la persona, certo, a cantare, però cantava. Era proprio lo spazio di una persona, quindi insomma, questo lo dico per i più... per i più esperti dal punto di vista tecnico, le voci sono poi state reincise negli altri brani, tranne in questo, che si è tenuto invece la voce di quella che doveva essere la base. Però era un'esecuzione talmente libera che non si poteva rifarlo. Poi proprio è stato catturato la sensazione di quel momento, e anche di fatto, io credo, il ricordo. Quindi ognuno ha messo musicalmente il ricordo che aveva di questa canzone. E gli americani cosa hanno detto di questo pezzo famosissimo che dalle loro parti? Gli americani questo pezzo lo amano, certo, lo adorano, è uno dei pezzi che più è arrivato all'estero. È arrivato solo quello? Degli italiani? Un po'... Siamo fermati. Esatto, un po' siamo fermati. Uno degli ultimi. Siamo fermati per molto tempo, siamo fermati là. Quindi senz'altro a loro piace. Abbiamo fatto anche quest'estate un concerto in collegamento Skype con le persone che là ci hanno voluto in concerto e che ci hanno seguito in questi anni, e gli abbiamo dedicato proprio questa canzone perché fa parte anche della loro memoria, quindi è bello dedicargli un pezzo che anche per loro ha un significato. Sì, allora facciamo una presentazione all'americana, dai. Titolo del pezzo? All'americana? All'americana. In italiano, spero. Sì, in italiano, in italiano, in italiano. In italiano. Okay. Beh, in inglese, insomma, noi italiani è meglio che non ci sforziamo più di tanto. Però non so com'è all'americana, quindi... Presenta il pezzo. Presenta il pezzo. Come ti senti? Di Domenico Modugno, Ciao Ciao Bambina. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò come una fiaba. C'era una volta, or non c'è più. Cose che trema sul tuo visino. È pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa è una versione molto particolare, scheletrica, e a me interessa l'arrangiamento che ci hai messo sotto. Beh, questo arrangiamento doveva essere il più possibile, sognante, per cui si parte con seppur lenti, si parte col classico tempo un po', diciamo, un po' swingato. Si parte con questo, poi quando la scelta che è stata fatta, e che c'era sempre un attimo da ricordarsela, però secondo me è basilare in questo pezzo, è stato di dimezzarne il tempo quando entrano gli strumenti. Ah, ho capito. Quindi quando entrano gli strumenti, il tempo da essere così diventa proprio più lento ancora. Questo, secondo noi, aiuta a mantenere la dimensione proprio del sogno, perché nel momento in cui tu ti aspetti che il pezzo cresca, invece il pezzo decresce, cioè cresce come intensità, come ricchezza sonora, ma si rallenta ancora, proprio fino a, di fatto, a esaurirsi in maniera onirica, almeno certo, nelle certo. intenzioni, ecco. A proposito di pezzi italiani, tu hai citato un bel aneddoto, non un aneddoto, una verità, un episodio che ti è capitato negli Stati Uniti. Sì, si parlava un po' del fatto che da un punto di vista di diffusione, Domenico Modugno è stato l'unico grande italiano della musica a varcare i confini mondialmente parlando, per cui specialmente nel Nord America Domenico Modugno è un po' la cosa più recente che sanno di noi. E quindi anzi Domenico Modugno gode di tutta la nostra stima, se no non l'avremmo incluso nel nostro disco, però ci sono tante esperienze italiane che noi crediamo che sono di valore e che magari noi crediamo anche che siano andate all'estero, ma spesso confondiamo il mondo latino col mondo nordamericano, che invece si è fermato molto indietro rispetto alla musica italiana, tranne qualche eccezione. E una di queste ci è capitata proprio a Chicago, mentre registravamo il disco. Eravamo in un negozio, bellissimo negozio di musica, stavamo guardando, si capiva dal nostro accento, dal nostro confabulare e gesticolare, che all'estero è sempre molto riconoscibile, che non eravamo indigeni, per cui il proprietario del negozio ci ha chiesto: ma voi di dove siete, come mai siete qui, eccetera, eccetera, italiani. E lui fa: ah, fantastico, io adoro la musica italiana. E noi, tutto sommato, ingenuamente credevamo che si riferisse proprio a questi nomi storici, perché solitamente quello che capita è questo, ecco, insomma, adoro la musica italiana, Volare, bellissimo. E invece lui fa: no, io sono un grandissimo appassionato del progressive rock italiano degli anni 70. Bello. E questo proprio ci ha sorpreso, che noi sapevamo appunto della PFM, per esempio, che è un gruppo che è riuscito ad arrivare a fare dei tour importanti in America. Però si è forato la classifica del 200° posto in Billboard. Esatto, quindi non è mai capitato. Non è poco. Però questa persona in particolare ci ha stupito, perché conosceva dei gruppi molto, molto, diciamo, particolari di questo genere, tipo gli Osanna, il Balletto di Bronzo, e quindi ci ha stupito trovare oltreoceano una persona così competente riguardo alla musica italiana. Quindi abbiamo capito anche da questo piccolo aneddoto, che per esempio forse pian pianino arriveremo anche un po' più avanti nella conoscenza della musica italiana, che comunque di valore ha tanto che merita, una lingua senza dubbio penalizzante dal punto di vista mondiale, anche se spesso quando vai all'estero è sempre richiesto che tu canti in italiano, è più apprezzato perché comunque è la tua particolarità. Certo, certo. Beh, interessante l'episodio che tu hai citato, perché il discorso del progressive italiano, dei gruppi abbastanza sconosciuti, erano sconosciuti anche dalle nostre parti, è difficile da trovarsi anche dalle nostre parti, quindi negli Stati Uniti è ancora peggio. Ok, sono quasi, non è mezzanotte, ma manca un pochino di tempo ancora per suonare. Che cosa come primo pezzo, innanzitutto, adesso? Facciamo un altro pezzo del vecchio album, sì. Così anche per voi è nuovo. Esatto. Che dire, è un pezzo un po' arrabbiato, non rock, non è nato rock, è nato psichedelico, ampio e tutto quanto. Si intitola Gridami. Macchie di vita rosso sangue, linee di vento, gocce di mare, scrivimi quello che vuoi, lasciami un segno del tuo passaggio, incidilo nella mia pelle, riesci a sciogliere i miei pensieri. sai solo scattare fotografie che cancellano il drago che divora il cuore. Lasciami, gridami, non farmi soffrire, spegnimi, ascoltami, non ho niente da offrire. Sale dagli occhi il mio pensiero. Verso la voce, guida le note come aquiloni, come un sapiente equilibri. Di stare sospeso nell'aria a galleggiare come una bolla d'aria che aspetta frutto a vola e infine esplode. Lasciami, gridami, non farmi thank you. sono solo un castello di sabbia. Che aspetta un'onda per fuggire. Sono solo un castello di sabbia. Aspetta un'onda per fuggire. Che aspetta un'onda per fuggire. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Io ed Alberto siamo stati estasiati, ci siamo buttati nella psichedelia, pura psichedelia, con questo strumento, col fiato, con un flauto particolare, vero Anna? Sì, questo è un flauto che abbiamo, viene anche lui dall'America, dai nativi americani, quindi dei cosiddetti indiani. Indiani, sì. Non so purtroppo di quale tribù, ma il flauto si chiama Coyote Oldman. E è un flauto di un artigiano nativo e quindi ha questo suono molto particolare. Sarebbe uno strumento da suonare da solo tendenzialmente. Noi vabbè, ti ha accompagnato Massimo con tutti gli effetti suoi molto particolari anche quelli, quindi esatto. Si è colorato benissimo il pezzo e abbiamo solo 5 minuti per concludere questa bella cavalcata. Allora ricordiamo dove si può trovare innanzitutto il vostro sito. Allora, il nostro sito, la nostra pagina Facebook è il contatto più diretto che abbiamo con chi ci segue, quindi www.facebook.com/idramante e noi siamo lì. Ultimamente abbiamo messo a disposizione questo live EP che è possibile scaricarsi gratuitamente e questo si trova all'indirizzo idramante.bandcamp.com. E per quello che riguarda il nostro CD Vita in Scatola è possibile averlo contattando noi oppure in versione digitale andando su iTunes oppure i nostri concerti. Certamente, benissimo. E poi ricordiamo un'altra cosa fondamentale, che le date dei vostri concerti, se avete qualcuna. Le date dei nostri concerti sono in preparazione perché andremo in tour più avanti, specialmente nel mese di marzo comincerà il nostro tour che avrà delle tappe sicure. Adesso dovremo essere il 27 a Firenze, il 29 a Roma e poi da lì contiamo di allungarci un po' nel centro-sud. Avremo probabilmente una parentesi all'estero. In aprile andremo a suonare in Austria e speriamo, stiamo chiudendo in questi giorni, di anticipare tutta questa cavalcata con alcune date in terra spagnola. Benissimo. Grazie agli Idramante, grazie al loro disco Vite in Scatola che abbiamo proposto, che abbiamo presentato, grazie che abbiamo spiegato. Grazie a voi. È stata una bellissima cavalcata. Ringraziamo particolarmente Michele Ottosono, stasera la sua ultima regia, è solo un abbandono temporaneo, ritornerà sicuramente. E grazie a tutti quanti, buonanotte a tutti e via con la musica ancora. Spegne sul fianco, espira e si chiude. Non riesce a rientrare. e sentire la voce. Si scopre più fragile e non è armonia. Ricorda un istante che assenza non era. Leggeri cadono, leggeri bella e stanca con gli occhi sereni e nel cielo nu. Tanti si sente da solo, si annebbia la vista che spezza le corde, l'attesa irrisolta di amara dolcezza. Sublime fermezza, salvezza leggera. Cadono leggeri. Leggeri, con gli occhi